meraviglie che sono sette, stanno scomparendo e sai perché? La tua bellezza ne offusca tutte, basterà ammirare solo te. Indiscutibilmente tu mi piaci, con i tuoi sguardi mi seduci, mi fai innamorare. Sei bella quando parli e quando taci, nel cuore mi bruci se ti voglio baciare. Per ogni strada tu costringi tanta gente di fermarsi e di doverti ammirare. E ognun precipite volissimevolmente, col cuore che gli batte te lo senti mormorare. Indiscutibilmente tu mi piaci, con i tuoi sguardi mi seduci, mi fai innamorare. Con gli occhi tuoi così profondi e audaci, con le tue labbra incantatrici, qualunque cuore induci al desiderio di farti amare. Tu costringi tanta gente di fermarsi e di doverti ammirare. E ognun precipite volissimevolmente, col cuore che gli batte te lo senti mormorare. Indiscutibilmente tu mi piaci, con i tuoi sguardi mi seduci, mi fai innamorare. Con gli occhi tuoi così profondi e audaci, con le tue labbra incantatrici, qualunque cuore induci al desiderio di farti amar, al desiderio di farti amar.